E allora, Ponte Radio, il contributo di Radio Wombat di Firenze per questa nuova e significativa collaborazione tra radio popolari, indipendenti e autogestite sparse sul territorio italiano, e vogliamo con questa puntata andare a fornire un contributo su quella che è la mobilitazione in atto un po' dappertutto e ovviamente anche in Toscana in favore e a fianco del popolo palestinese per un vero e immediato cessate il fuoco, per una sospensione delle ostilità che poi, insomma, siamo ovviamente schierati dalla parte della Palestina e non abbiamo alcun problema a utilizzare la categoria di genocidio. Genocidio, quello che crediamo sia in atto e che Israele, con il sostegno purtroppo di molti paesi internazionali, compreso quello, insomma, il nostro, diciamo, l'Italia e il nostro governo, sta continuando a portare avanti imperterrito. Siamo a circa un mese dalla manifestazione, dalle manifestazioni, anche lì era il 23 di febbraio, venerdì, un giorno di sciopero lanciato dai sindacati di base, raccogliendo l'invito delle organizzazioni di lavoratori e lavoratrici palestinesi, e la nostra Toscana si è mobilitata nelle maggiori città, soprattutto Firenze e Pisa. In entrambe le situazioni abbiamo visto la reazione brutale della polizia alle iniziative prese da studenti e studentesse, studenti e studentesse medie, universitarie e universitarie, che insieme ai lavoratori che hanno deciso di sfruttare la finestra di opportunità fornita dai sindacati di base che hanno convocato appunto lo sciopero generale, hanno tentato di manifestare in tutta Italia e appunto, come si diceva, le nostre città toscane. Pisa, città insomma che ha avuto una ribalta nazionale, non solo per la risposta che gli studenti hanno dato a questo appuntamento per il 23 di febbraio, ma anche per la brutalità appunto dell'intervento di polizia, che con immagini che hanno fatto un po' il giro del web, il giro del mondo, rompendo forse anche la coltre di censura che sta avvolgendo purtroppo come una nebbia spessa e molto fitta le iniziative in solidarietà con la Palestina, bollate come iniziative antisemite dai poteri forti e soprattutto, insomma, dal sistema mediatico e mass mediatico dominante. Noi oggi andiamo a raccogliere appunto una testimonianza, un racconto dagli studenti e dalle studentesse pisane che il 23 febbraio hanno manifestato, e chiediamo appunto a loro, a distanza di un mese, di farci magari un breve riassunto di quello che è successo quel giorno per chi tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici se lo fosse perso. Ricordiamo appunto che la trasmissione va oltre i confini delle nostre radio abituali, quindi è un contributo che forniamo ad altre radio sparse per il territorio nazionale, quindi non diamo niente per scontato e vi chiediamo appunto di ripercorrere un attimo quella che è stata la giornata del 23 di febbraio, prima di passare alle valutazioni su quella che invece è stata l'importante risposta che Pisa è stata capace di mettere in campo, e magari fare anche un aggiornamento su quelle che è, diciamo, il risultato di questa mobilitazione appunto a quasi un mese dai fatti. A voi per cominciare a ripercorrere appunto quella giornata di venerdì 23 febbraio. Sì, allora brevemente quello che è successo il 23 febbraio è stato appunto, come veniva detto prima, che abbiamo risposto allo sciopero nazionale generale chiamato dai sindacati e abbiamo deciso di fare su Pisa uno sciopero studentesco sia delle scuole che dei tre atenei pisani per in particolare denunciare le complicità dei luoghi della formazione rispetto al genocidio in Palestina. Quindi siamo partiti in una passeggiata nel centro tra appunto le scuole e i diversi poli universitari, ma appena la passeggiata è partita, proprio davanti a una scuola era appunto schierata la celere sull'ingresso di Piazza dei Cavalieri, che è dove si trova la scuola normale superiore, e che ci ha appunto caricate. Inizialmente il corteo è rimasto fermo rispetto alle cariche, nel senso che nessuno è indietreggiato, c'era una determinazione molto forte perché tutte le persone che erano lì presenti avevano ben chiaro il motivo per cui erano lì. E questo ha in qualche modo spinto la celere a dover aumentare il grado di violenza nei nostri confronti, per cui diciamo, sono arrivati dopo una quarantina di minuti in cui c'era una resistenza bella netta da parte del corteo che non si smuoveva, a caricarci molto violentemente, a rincorrere, a prendere per i cappucci, insomma tutte le immagini che si sono viste circolare sul web. Questo è successo perché appunto quella manifestazione era una manifestazione che veniva dopo un più ampio ciclo di mobilitazioni a livello nazionale e anche nella nostra città. Appunto a novembre scorso si è data la prima mobilitazione in solidarietà alla Palestina, che ha visto occupare la Torre di Pisa e appunto sventolare un bandierone di 15 metri della Palestina dagli archi della Torre di Pisa. Dopo quella mobilitazione si sono date tante altre, l'occupazione in università, mobilitazioni di boicottaggio alle complicità di Israele, e diciamo questa manifestazione quindi appunto non era singola, ma era parte di un processo comunque di anche radicalità sul nostro territorio, che ha visto tante persone mobilitarsi e prendere posizioni rispetto a quello che sta succedendo in Palestina. E pensiamo che sia anche questo il motivo della forte risposta della controparte. Ecco, benissimo, grazie. Un po' forse dalle immagini, per chi le ha viste, si era anche capito che, insomma, come ci hai spiegato, come ci avete raccontato, le persone sapevano che in Palestina c'è un genocidio, quindi non hanno accettato di farsi spostare come birillini, come piacerebbe sempre alle forze dell'ordine e agli apparati di polizia, e siccome non sono riusciti a spostarvi facendovi brutto, alla fine hanno cominciato a menarvi e quando poi gli prende il gusto di usare il manganello, insomma la polizia italiana la conosciamo da tanti e tanti decenni ed è famosa nel mondo per le sue capacità manganellatorie, diciamo così. Scusate se ho usato un po' di ironia, d'altronde siamo toscanacci, per chi ci ascolta da fuori dalla Toscana lo apprezzerà, sono convinto. Direi a questo punto di dire anche che la violenza in questo caso, anziché essere una colata di sabbia sul fuoco, forse è servita per catturare più attenzione e aumentare la partecipazione. Lo sappiamo, ma ci piacerebbe appunto che voi articolaste un po' quello che è successo dopo il pomeriggio di botte e cosa è successo a Pisa. Sì, poi la sera stessa del 23 febbraio c'è stata una fortissima risposta di attivazione della città, che appunto si è riunita in presidio di fronte al comune quella sera, ed è partita poi in un corteo spontaneo di migliaia di persone che ha poi occupato Piazza dei Cavalieri, che è appunto la piazza subito fuori dalla quale sono avvenute le cariche della mattina. Questo appunto ha mostrato la volontà della città a resistere a queste forme di intimidazione e di repressione, ma soprattutto a riprendersi gli spazi che ci volevano togliere quella mattina. E l'organizzazione e la mobilitazione sono andate avanti anche nelle settimane successive, quando il 2 marzo ad esempio anche lì un corteo gigantesco di più di 10.000 persone, chiamato dagli studenti medi, ha attraversato la città di Pisa, e in particolare anche l'8 marzo lo sciopero transfemminista globale è stato caratterizzato non solo a Pisa ma anche a Pisa, tanto comunque delle rivendicazioni sulla Palestina, e quindi era un corteo appunto pieno di bandiere per la Palestina in cui si gridava appunto per una Palestina libera. Il 14 marzo invece c'è stato un senato accademico in cui appunto questo movimento di fatto di studentesco che si è creato intorno alla questione palestinese ha portato una mozione insieme a tanti altri gruppi che comunque si riconoscono sotto questo diciamo cappello di studenti per la Palestina, e in questa mozione c'erano tutta una serie di rivendicazioni che andavano a colpire proprio la questione delle complicità tra il nostro Ateneo, così come dell'Università Italiana in generale, con il governo e le istituzioni di ricerca israeliane, e quindi diciamo la complicità diretta con il genocidio. La mozione è stata, di fatto, tutte le mozioni sono state praticamente accantonate e riscritte in una maniera che di fatto non risponde agli obiettivi che noi avevamo a quel senato accademico, ma comunque c'è stato un presidio che è durato tutta la giornata, che è stato lì per 8 ore di fronte a dove si stava svolgendo la seduta del senato e che è andato avanti a contestare appunto queste complicità. Quello che abbiamo ottenuto al senato accademico per noi non è abbastanza, anzi conferma proprio la collusione dell'università rispetto a quello che sta succedendo in Palestina, ed è per questo che le nostre mobilitazioni continueranno. Nelle prossime settimane stiamo organizzando assemblee su assemblee nei vari dipartimenti per continuare a lavorare capillarmente, ma in una dimensione molto allargata su questa questione in università, e anche sul piano cittadino in generale si stanno aprendo altri fronti, come ad esempio la normale di Pisa. Il 20 marzo, quindi fra 2 giorni, ci sarà uno sciopero studentesco proprio in risposta a un senato accademico dove anche lì è stata contestata la violenza della polizia del 23 febbraio, ma senza dire nulla della complicità che le nostre istituzioni formative hanno nel genocidio in Palestina. E il 20 marzo appunto ci sarà questo sciopero con un presidio in Piazza dei Cavalieri, in cui si porteranno avanti tutta una serie di rivendicazioni approvate a maggioranza dall'Assemblea Generale degli Allievi della Normale, che riguardano appunto il dossieraggio, ad esempio, di tutte le complicità e tutti gli accordi che la Normale intrattiene con Israele, così come anche l'esposizione della bandiera palestinese, l'interruzione delle collaborazioni con le istituzioni israeliane e col Sant'Anna di Pisa, che è una istituzione d'eccellenza che ha tantissimi accordi con la filiera bellica, con Leonardo, eccetera, e che di conseguenza è una diretta responsabile di questo genocidio. Ottimo, davvero ottimo, quasi impressionante sentire dalle vostre parole tutto quello che succede e di cui sostanzialmente sui media mainstream non arriva notizia, fatto salvo appunto per il clamore delle manganellate quando si danno e quando arrivano. Processo, quello che appunto avete descritto a Pisa, che però è un processo dentro un paese che è la nostra martoriata Italia, martoriata dalle scelte politiche del governo, dalle scelte politiche del centro destra che lo governa, però insomma le cose succedono e stanno succedendo. Insomma, come si colloca Pisa dentro questo quadro più generale? Insomma, la risposta sulla nostra città, ma non solo, è stata estremamente forte. Nei giorni subito a seguire il 23 febbraio in tutta Italia ci sono state mobilitazioni, a Roma ci sono state delle mobilitazioni studentesche di migliaia di persone che sono andate sotto al Ministero, fino sotto Montecitorio, ci sono state mobilitazioni, presidi, scioperi nelle scuole di non solo di tutte le grandi città, ma anche delle piccole province in Toscana e in tutta Italia, tutte che dicevano la stessa cosa, che era appunto stop al genocidio, e soprattutto che rivendicavano la volontà di la libertà di lottare, di ribellarsi per la Palestina. E appunto questo si è dato nella nostra città. C'è stata anche un'assemblea di 500 persone nei giorni subito a seguire, che hanno proprio rivendicato questo piano qui della volontà di ribellarsi, della libertà di ribellarsi, affinché si fermi il genocidio e affinché la Palestina sia libera. E questa è la spinta che ci muove adesso, che sta muovendo tantissime persone a Pisa, in tutta Italia e in tutto il mondo, e che ci auguriamo possa essere veramente un fuoco che continua ad ardere e a crescere in queste settimane, non solo nell'Università di Pisa, non solo nei 3 atenei pisani e nelle scuole pisane, ma in tutta la città, proprio nell'ottica di fermare il genocidio, concretamente darsi la possibilità, la fiducia di poter contribuire, di poter contare nel bloccare questo genocidio. Grazie ancora agli studenti e alle studentesse pisane che sono stati con noi, veramente credo un contributo di qualità per raccontare una parte dei nostri territori, quella parte che purtroppo ancora non conta abbastanza da farsi ascoltare, però crediamo che tutto quello che abbiamo detto e che abbiamo sentito, fatto insieme, visto e sentito fare dagli studenti e dalle studentesse pisane sia una goccia che serve a scatenare la tempesta di cui abbiamo bisogno, per citare le parole di Orso Tekocher, il compagno fiorentino appunto che è poi morto in Siria dando la vita per la rivoluzione del confederalismo democratico e di cui pochi giorni fa è ricorsa la data della sua morte appunto in combattimento in Siria insieme alle formazioni curde. Direi con questo che con il contributo che abbiamo raccolto è tutto, ripasso la parola alla regia per continuare con il nostro Ponte Radio.